Il nostro amico Tom, che aveva ascoltato nella cucina i lamenti della povera venditrice di pani, l'aveva seguita fuori nella via. La vide allontanarsi, mandando ogni tanto gemiti mal rattenuti. Finalmente ella collocò la sua cesta sopra gli scalini di una gradinata e cercò di aggiustarsi il vecchio scialle sbiadito che aveva sulle spalle. «Volete far portare un po' con me la vostra cesta?» disse egli con molta compassione. «Perché?» rispose la donna. «Io non ho bisogno di aiuto». «Mi sembrate malata oppure avete qualche affanno?» «Non sono malata», rispose quella seccamente. «Io vorrei», soggiunse Tom guardandola con benevolenza profonda, «vorrei persuadervi a non bere più come siete solita fare. Non sapete che ciò sarà la vostra rovina del corpo e dell'anima?» «Oh, so bene che mi incammino verso l'inferno», disse la donna col viso tetro. «Non occorre che me lo diciate, io sono brutta, sono perversa e vo' diritta all'abisso. Oh, Signore Dio, vorrei che questo già fosse». Tom rabbrividì a queste parole orrende, pronunziate con risolutezza e acerbità. «Il Signore abbia pietà di voi, povera donna. Non avete mai udito parlare di Gesù Cristo?» «Gesù Cristo? Chi è egli?» «È il Signore», rispose Tom. «Ah sì, mi sembra di aver udito parlare del Signore, del giudizio, delle pene dell'inferno. Qualche cosa ne ho sentito dire. Ma nessuno vi palesò mai quanto Gesù Cristo amò tutti noi, poveri peccatori, fino a morire per la nostra salvezza?» «E come farei a sapere tutte queste cose?» rispose la donna. «Mai nessuno mi volle bene da che morì il mio vecchio». «Dove foste allevata?» «Nel Kentucky. Un uomo mi teneva colà, nutri e fanciulli per venderli poi sul mercato. Un giorno vendette me pure a un trafficante, dal quale il mio padrone mi comprò». «Perché vi siete date al vizio del bere?» «Per dimenticare la mia miseria. Ebbi un figliuolo da che son qui. Speravo che me lo lasciassero allevare perché il padrone non trafficava. Era un grazioso fanciullo e la padrona sulle prime sembrava molto tenera di lui perché il meschinello non piangeva mai e veniva su stupendamente. Ma la padrona si ammalò, io l'assistetti senza posa e ci guadagnai la febbre. Allora tutto il mio latte se ne andò. Il mio bimbo rimase in poco tempo pelle e ossa. Né la padrona volle comprar latte per nutrirlo. Ella diceva che il poverino poteva mangiare di quanto mangiavano gli altri. Cosicché gli pativa orribilmente. Strillava, strillava giorno e notte e la padrona lo prese in odio e disse che era una cosa insopportabile. Vorrei che fosse morto! Esclamava, né voleva lasciarmelo di notte, dicendo che mi teneva sveglia e mi impediva di fare il mio dovere. Mi fece dormire nella sua camera e io ero costretta a lasciare il mio bimbo abbandonato in una soffitta. Qui una notte il poverino strillò tanto che morì e io cominciai a bere per stordirmi, per non aver più i suoi strilli nelle orecchie e berrò sempre anche a costo di andare all'inferno. Povera donna! Disse Tom, nessuno vi ha mai detto che il Signore vi amò e che morì per voi. Nessuno vi ha mai detto che Egli può soccorrervi e che voi potete andare in cielo e trovarvi finalmente il riposo. Sono proprio incamminata verso il cielo, disse la donna. Forse che non vi saranno bianchi colà? Suppongo che anche colà mi maltratterebbero. Oh, mi è più caro andare nell'inferno, essere lungi dal padrone e dalla padrona. Sì, mi è più caro. E accompagnando queste parole con un sordo grugnito, si rimise in capo la sua cesta e si allontanò. Tom ritornò tristemente a casa. Entrando nel cortile, trovò la fanciulletta con intorno al capo una ghirlandina di tuberose e con gli occhi scintillanti di giubilo. «Tom, siete qui! Come sono contenta di trovarvi! Il babbo dice che potete attaccare i pony alla mia carrozzetta nuova per farmi fare una passeggiata», disse ella prendendolo per mano. «Che avete, Tom? Siete triste?» «Non mi sento bene, Miss Eva, ma vado subito a mettere i finimenti ai cavalli. Via, ditemi che cosa vi affligge, io vi ho veduto discorrere e contrastare con la vecchia Prue». Tom allora narrò a Evangelina, con eloquente semplicità, la storia della povera donna. La piccola non fece alcuna esclamazione, non espresse meraviglia, non pianse come altri fanciulli avrebbero fatto, ma impallidì e una fosca nube velò i suoi occhi. Poi incrociò le mani sul petto e mandò un gran sospiro. 19. Continuazione delle esperienze di Miss Ofelia. «Tom, non attaccate i cavalli. Non ho più voglia di uscire», disse Evangelina. «E perché, Miss Eva? Perché quelle miserie mi fanno male al cuore, disse ella. Sì, mi fanno male, ripeté vivamente. Non voglio uscire. E voltando le spalle a Tom, rientrò in casa. Alcuni giorni dopo si vide una vecchia giungere portando i soliti panetti invece della Prue. Miss Ophelia era nella cucina. Dio buono! Esclamò Dina. O la Prue! La Prue non tornerà più, disse la donna con aria misteriosa. E perché? Forse è morta? Non lo sappiamo, è nella cantina, disse la donna gettando uno sguardo verso Miss Ophelia. Quando questa ebbe preso i panetti, Dina accompagnò la donna fino all'uscio. Che è stato della Prue, insomma? Disse ella. La donna pareva desiderosa e peritosa un tempo di parlare, rispose a voce sommessa. Ebbene, non lo dite a nessuno. La Prussia è di nuovo ubriacata. L'hanno gettata nella cantina e ve l'hanno lasciata tutto il giorno. Ho inteso dire che le mosche le si sono gettate addosso e che ella ne è morta. Dina alzò le mani e voltandosi vide presso di sé l'aspetto angelico di Evangelina, i cui occhi pensosi erano dilatati per l'orrore, mentre le guance e le labbra di lei erano stranamente pallide. Dio ci aiuti, Miss Eva sta per svenire. Perché mai le si lasciano dire certe cose? No, io non mi svengo, Dina, disse la fanciulla con fermezza. E perché non potrei ascoltare tali cose? Non è amaro per me eludirle quanto la Prue di soffrirle. Ah, Signore Dio, le orecchie delicate delle giovinette non sono atte a udire tali storie, c'è da morirne. Evangelina sospirò e si avviò su per la scala di passo lento e malinconico. Miss Ophelia domandò ansiosamente la storia della vecchia, Dina ne fece una diffusa narrazione e Tom vi aggiunse quello che sapeva. Ma è una cosa abominevole, esclamò Miss Ophelia entrando nella stanza dove St. Clair stava leggendo il giornale. Di quale iniquità si tratta? Disse egli. Di quale? Niente meno che hanno ucciso la povera Prue a forza di staffilate, disse ella, e narrò il fatto nelle sue più minute circostanze, mettendo in gran luce le più orribili particolarità. Già, io pensavo che un giorno o l'altro sarebbe andata a finire a questo modo, disse St. Clair riprendendo il suo giornale. Come? Ci pensavate e nulla faceste per impedirlo? Non avete qui alcuna persona autorevole da interporsi, venendo a cognizione di fatti simili? Boh, di solito si suppone che l'interesse dei privati sia garanzia bastante in tali casi. Se la gente vuol distruggere la sua proprietà, io non vedo che cosa altri possa farvi. Sembra che la povera creatura avesse le mani un po' fatte a uncino e alzasse troppo il gomito, per cui non c'è molto da sperare che lei citi gran simpatia. Ma è un'infamia! È un orrore, Agostino! Ciò trarrà certamente la vendetta del cielo sul capo di voi tutti. Cara cugina, io non ci ho colpa, né ci posso far niente. Eppure lo vorrei, se potessi. Se gente ignobile e brutale agisce in modo degno di sé, che possiamo dire noi altri? Essi hanno un'autorità assoluta. Sono despoti che non devono rendere ragione dei fatti loro. Sarebbe inutilissimo il porvisi di mezzo. Non esiste legge che abbia un valore pratico in casi simili. Il meglio che vi sia da fare è di turarci gli orecchi, chiudere gli occhi e non immischiarcene, non c'è altro scampo. Come vi basta l'animo di turarvi gli orecchi e chiudere gli occhi? Cara mia, che cosa sperereste dunque? Una classe avvilita, ineducata, indolente, petulante e in piena balia dei bianchi che sono assai più numerosi, che non hanno freno né autorità che li sovrasti, che non sono nemmeno abbastanza avveduti nei propri interessi. In siffatte condizioni sociali, che può fare un uomo di sentimenti umani e onorevoli se non chiudere gli occhi e indurire il proprio cuore? Io non posso comprare tutti i poveri infelici che incontro, non posso farmi cavaliere errante e intraprendere la riparazione di tutti i torti, di tutte le ingiustizie che si commettono in una gran città come questa. Tutto ciò che io posso fare è di tenermi in disparte. Il volto di St. Clair fu per un istante rannuvolato, quasi provasse internamente un certo affanno, ma presto, ripigliando il suo sorriso gioviale, disse: Su via, cugina, non mi state lì con una cera da nemesi. Voi non sollevaste ancora che un lembo del velo, non vedeste che un saggio della scena del mondo. Se noi volessimo esaminare e scrutare tutto quanto vi è di lugubre nella vita, avremmo a schifo ogni cosa. Sarebbe come esaminare la cucina della nostra Dina. E adagiatesi meglio sul sofà, St. Clair prese di nuovo a scorrere il giornale. Miss Ophelia si pose a sedere, prese il suo lavoro a maglia e diè ai ferri un moto quasi convulso. Lavorava, lavorava, ma intanto cresceva la sua indignazione quando finalmente proruppe: Bisogna che ve lo dica, Agostino. Io non posso darmi pace di queste cose come fate voi. Io sostengo che è una vera abominazione il difendere un tal sistema. Che? Disse Sinclair alzando gli occhi. Siamo da capo? Ve lo ripeto, è veramente abominevole il difendere come fate voi un tale sistema, disse con crescente calore Miss Ophelia. Ma chi vi dice che lo difenda? Replicò Sinclair. Forse che non lo difendono tutti gli abitanti del Sud? Se ciò non fosse, terreste schiavi? Siete tanto semplice da credere che a questo mondo non si facciano se non le cose che si stimano giuste? Non avete mai fatto alcuna cosa che comprendevate non essere assolutamente irreprensibile? Quando ciò mi accade, io me ne pento almeno, rispose Miss Ophelia battendo i ferri con raddoppiata energia. E io pure, disse Sinclair mentre aveva preso a sbocciare un'arancia, io me ne pento ogni momento. Ebbene, perché continuate? Non avete mai continuato voi a fare il male dopo esservene pentita, mia buona cugina? Può anche darsi, ma solamente quando fui fortemente tentata, disse Miss Ophelia. Ebbene, io sono fortemente tentato, in ciò appunto sta la mia difficoltà. Ma io presi sempre la risoluzione di non proseguire nel male e di mantenere il buon proponimento. E io pure. Da 10 anni rinnovo tutti i giorni la stessa risoluzione e non so come non l'abbia finora potuta eseguire. Siete riuscita voi, cugina, a non cadere in alcun errore? Cugino, disse Ofelia con serietà e mettendo da parte il suo lavoro, per certo io merito che mi rinfacciate i miei errori, di cui non intendo discolparmi. Tuttavia, corre tra noi qualche differenza. Io preferirei di troncarmi la destra anziché continuare a fare giorno per giorno ciò che considero come peccato. E se le mie azioni fossero del tutto opposte ai miei principi, accetterei la vostra riprovazione. Oh, via, cugina, disse Agostino, sedendosi a terra ai piedi di Miss Ophelia. Non parlate in modo sì solenne in queste ore tanto calde. Può forse l'uomo innalzare la mente a sublimi contemplazioni quando il suo corpo è tormentato dalla vampa del sole e dalle punture degli insetti? Quando il corso degli avvenimenti richiede che esso tenga 1 o 2 dozzine di neri, bisogna adattarsi all'opinione pubblica. Oh, Agostino, non parlate sul serio. Ma sì, ascoltate, disse Sinclair, il cui viso si atteggiò a un tratto a gravità. Non vi può essere, almeno lo credo fermamente, che una sola guisa di pensare sulla questione astratta della schiavitù. I piantatori che se ne giovano, gli ecclesiastici che vogliono ingraziarsi i piantatori, i politici che se ne fanno un mezzo di governo, possono alterare e torcere il linguaggio e la morale in modo da fare stupire tutti gli uomini per la loro accortezza, possono violentare la natura e la Bibbia a pro del loro sistema. Ma in sostanza, né essi né il mondo si illudono di questo. La schiavitù è un'invenzione del diavolo, il quale, istituendola, ha dato un saggio di ciò che è capace di fare. Miss Ophelia rimase attonita. Sinclair, godendo dello stupore di lei, continuò: Che ve ne pare? Non vi aspettavate di udirmi parlare a questo modo? Ma se avrete pazienza di ascoltarmi fino alla fine, mi assolverete facilmente. Questa maledetta istituzione, esecrata da Dio e dagli uomini, che cos'è? In sostanza, spogliatela di tutti i suoi ornamenti, scavate fino alla radice, fino al germe. Che è questo alla fine? Ve lo dirò io, perché il mio fratello nero è ignorante e debole e io intelligente e forte gli prenderò tutto quello che ha, lasciandogli solo ciò che a me piace. Le durezze, le sudicerie, le cose sgradevoli le imporrò a lui, perché io non mi sento voglia di lavorare e gli lavorerà invece mia. Perché il sole mi scotta e gli sarà esposto ai raggi ardenti del sole, egli guadagnerà il denaro, io lo spenderò, egli si stenderà in tutte le pozzanghere che troverà sulla via da me percorsa affinché io possa a piede asciutto passarla sopra il suo dorso. Egli farà la mia volontà e non la sua in ogni giorno della sua vita mortale e non avrà altri mezzi di salire al cielo tranne quelli che a me piacerà di concedergli. Tutte queste ingiustizie sono corollari di tale istituzione. Io sfido chiunque a leggere il nostro codice nero e a trarne un diverso costrutto. Si parla di abusi della schiavitù, che follia. La cosa stessa è la quintessenza di tutti gli abusi. È la sola ragione per la quale non vediamo la terra sprofondarsi sotto il peso di tali iniquità come Sodoma e Gomorra, è che la schiavitù non viene applicata in tutta la sua estensione. Per compassione, per pudore, perché siamo nati da donna e non da belva, non facciamo uso di tutta la forza che le leggi pongono nelle nostre mani. I più insensibili, i più barbari, non eccedono i limiti della legalità. Sinclair si era alzato. e come soleva quando era commosso, camminava a gran passi per la stanza. La sua bella faccia classica, simile a quella di una statua greca, raggiava di nobile fuoco. I suoi grandi occhi azzurri mandavano lampi ed egli involontariamente faceva gesti concitati. Miss Ofelia, che non l'aveva mai veduto in quel modo, serbava un profondo silenzio. «Io vi dichiaro», disse egli fermandosi a un tratto dinanzi a lei, «che se per cessare tanta ingiustizia e miseria questo paese si sprofondasse sottoterra, consentirei d'essere inghiottito con esso. Quando io viaggio e rifletto che ognuno di quegli uomini brutali, abietti, spregevoli, dissoluti, nei quali mi imbatto, ha dalle nostre leggi il diritto di esercitare un potere assoluto sopra altrettanti uomini, donne e fanciulli, quanti può comprarne con quel denaro che gli ruba o che truffa. Quando vedo tali uomini possedere fanciullini, giovinette, donne, sono tentato di maledire il mio paese, di maledire la razza umana. Agostino, Agostino, esclamò Miss Ofelia, basta. Voi avete detto anche troppo. Mai in tutta la mia vita ho udito cose simili, neppure nel nord. Ah, nel nord, riprese a dire St. Clair, cambiando espressione e ripigliando il suo accento solito di spensieratezza. Poh, i vostri abitanti del nord non hanno sangue nelle vene. Voi, gente del nord, siete freddi e apatici in tutto. Voi non sapete maledire e imprecare come facciamo noi quando diciamo davvero. Ma per tornare alla questione, replicò Miss Ofelia, la questione? Oh sì, è dopo tornarvi, continuò St. Clair. Diabolica questione, in fede mia. In qual modo tu sei caduto in questa condizione di peccato e di miseria? Io risponderò, l'ebbi in retaggio. I miei schiavi erano di proprietà di mio padre e di mia madre, ora essi appartengono a me con tutta la loro posterità, che non è poco aumento. Mio padre, lo sapete, era originario della Nuova Inghilterra, era un uomo diverso dal vostro, un vero antico romano. Altero, energico, generoso, dotato di una volontà di ferro. Vostro padre si stabilì nella Nuova Inghilterra per regnarvi sulle rocce e sui sassi e strappare con stento dalla natura il suo pane quotidiano. Mio padre invece si stabilì nella Louisiana per governarvi uomini e donne e farli lavorare per la sua sussistenza. Mia madre, soggiunse St. Clair levandosi da sedere e muovendo verso un ritratto che stava appeso all'altra estremità della stanza, mia madre era un angelo. Non vi offenda questa parola, giacché voi sapete quello che voglio dire. Certamente ella era nata mortale, ma per quanto io posso ricordarmene, non era in lei alcuna traccia degli errori e delle debolezze umane. Tutti coloro che si ricordano di lei, schiavi, amici, conoscenti, congiunti, tutti lo asseriscono. Vedete, cugina? Questa madre adorabile per molto tempo mi impedì d'essere del tutto incredulo. Ella era per me il Vangelo personificato, una prova vivente della sua verità. Oh, madre mia, esclamò dopo breve pausa St. Clair, congiungendo le mani con impeto di commozione amorosa. Poi, fermandosi subito, fece alcuni passi indietro e mettendosi a sedere sopra un'ottomana, continuò. Mio fratello ed io eravamo gemelli, dicono, lo sapete, che i gemelli debbono rassomigliarsi tra loro. Ma noi eravamo diversi in ogni cosa. Egli aveva occhi neri vivaci, capelli neri e lucidi, un forte e bel profilo romano, era bruno e ben complesso della persona, io invece biondissimo, con occhi azzurri, carnagione bianca e delicata. Egli era attivo, io pensatore. Egli era generoso coi suoi amici e coi suoi uguali, ma superbo, imperioso, arrogante con gli inferiori e inesorabile con gli avversari. Ci amavamo, come di solito i fratelli si amano tra loro, ma ora sì, ora no. Mio fratello era il prediletto di mio padre ed io il beniamino di mia madre. Era in me una sensibilità, per così dire, morbosa, una vivacità di impressioni per cose che mio fratello e mio padre non comprendevano e per le quali non potevano provare la minima simpatia, ma mia madre mi conosceva. Perciò, allorché io avevo altercato con mio fratello e quando mio padre mi guardava con occhio severo, io correvo nella camera di mia madre e mi ponevo a sedere vicino a lei. Mi par di vederla ancora, con quella sua placida e soave fisionomia, con quel suo sguardo tenero, profondo, grave, con quella sua veste bianca. Mia madre vestiva sempre di bianco e io pensavo sempre a lei tutte le volte che leggevo nell'Apocalisse quel che v'è scritto, dei santi vestiti di chiare e bianche vesti, lunghe fino ai piedi. Mia madre aveva le più belle doti e la più grande attitudine a ogni sorta di pregi, in special modo alla musica, nella quale era, al dire di tutti, eccellente. E quando ella, seduta per lunghe ore davanti all'organo, faceva sentire le antiche e sublimi ispirazioni della Chiesa Cattolica, cantando con una voce somigliante più alla voce di un angelo che a quella di una donna, io posavo la testa sopra le sue ginocchia e piangevo. Pensavo e sentivo tante tali cose che con le parole non si possono esprimere. La schiavitù a quell'epoca non era ancora venuta in campo di discussione, nessuno ci aveva trovato alcuna cosa da ridire. Mio padre era nato aristocratico, forse in una vita anteriore aveva occupato un alto grado e gli era rimasto tutto l'orgoglio delle antiche corti. Quantunque discendesse da famiglia povera e popolana. Mio fratello era la fedele immagine di lui, un aristocratico, si sa, non ha simpatie al di là di una certa linea sociale. La linea di demarcazione varia secondo i paesi, ma non viene mai oltrepassata. E agli occhi di mio padre, questa era segnata dal colore della carnagione. Giusto e generoso coi bianchi, considerava i neri come anello di congiunzione tra l'uomo e il bruto e fondava su questa ipotesi tutte le sue idee di equità. Io credo che se qualcuno gli avesse domandato: i neri hanno un'anima immortale? Mio padre avrebbe forse risposto di sì, ma per mio padre la religione era una cosa secondaria. Tutti i suoi principi religiosi consistevano nel venerare il Dio come capo delle classi superiori. Mio padre faceva lavorare 500 neri circa, inflessibile, esigente, puntiglioso negli affari, voleva che ogni cosa andasse come un meccanismo, con una precisione e un'esattezza infallibili. Ora, se riflettete che i neri sono uomini bugiardi, fiacchi, snervati, comprenderete facilmente che nelle piantagioni di mio padre avvenivano spesso fatti che martellavano un cuore sensibile come il mio. Inoltre, mio padre aveva un sovrintendente, un omaccione dall'aspetto sinistro di polsi robusti, un figlio rinnegato dal Vermont, che avrebbe potuto mettere scuola di modi aspri e brutali, tanto era in ciò superiore agli altri. Né mia madre né io potevamo soffrirlo, ma egli aveva acquistato sopra mio padre un vero predominio, costui dunque era il sovrano assoluto della piantagione. A quel tempo ero un fanciullo, ma già mi accendeva un certo amore per la povera umanità ed ero fin da allora appassionato per lo studio degli uomini. Io mi aggiravo di continuo fra le capanne dei neri e per il campo in mezzo ai lavoratori, e così divenni ben presto il loro favorito e il confidente di tutti i loro patimenti e di tutti i loro reclami, che riferivo poi a mia madre. E mia madre e io formavamo una specie di comitato per riparare le ingiustizie. Più di una volta ci riuscì di impedire o mitigare atti crudeli ed eravamo lieti di tutto il bene che potevamo fare, ma alla fine, come avviene spesso, il nostro zelo eccedette. Stubbs si lagnò con mio padre dicendo che non aveva più alcuna autorità sugli schiavi e che era costretto di rassegnare il suo posto. Mio padre era un marito affettuoso e indulgente, ma non indietreggiava mai dinanzi a cosa alcuna che egli stimasse necessaria, perciò pose come una barriera insormontabile tra noi e gli schiavi della piantagione. Egli significò a mia madre, in termini pieni di rispetto e di deferenza, ma abbastanza chiari ed espliciti, che ella era padrona assoluta degli schiavi della casa, ma che non aveva alcuna ingerenza su quelli della piantagione. Mio padre riveriva e rispettava sua moglie sopra ogni altra persona, ma avrebbe fatto la stessa dichiarazione anche alla Vergine Maria se si fosse trovata in opposizione col suo sistema. Spesso io udii mia madre che ragionava con lui e si studiava di risvegliare le sue simpatie, ma egli ascoltava le perorazioni più patetiche con una urbanità e una freddezza veramente scoraggianti. Tutta la questione, diceva mio padre, sta in ciò: mi separerò da Stubbs oppure seguiterò a tenerlo. Stubbs è la puntualità, l'onestà, l'operosità in persona. Ha una grande intelligenza degli affari e quanto all'essere umano lo è al pari di quasi tutti gli altri sovrintendenti. No, mia cara, non possiamo pretendere la perfezione. Se io seguito a tenere come Stubbs, debbo nel complesso sostenere la sua amministrazione, quando anche fosse meritevole di biasimo in qualche accessorio. Ogni governo ha i suoi difetti, ma le regole generali sovrastano i casi particolari. Tale massima sembrava a mio padre sufficiente scusa per gli atti di crudeltà meno plausibili, e non appena l'aveva proferita si sdraiava sul sofà come un uomo che ha spedito un affare e si metteva, secondo i casi, a dormire o a leggere il suo giornale. Mio padre aveva l'ingegno e la qualità che occorrono a formare un uomo di Stato e gli avrebbe diviso la Polonia con quell'indifferenza medesima con cui divideva un'arancia e oppresso e schiacciato l'Irlanda con una magnifica impassibilità e mia madre da ultimo dovette cedere, convinta della inutilità dei suoi sforzi. Mai sarà conosciuto fino al giudizio finale quanto abbiano sofferto nobili e sensibili anime come era la sua, sbalestrate senza aiuto di sorta in ciò che loro pareva un abisso di ingiustizia e di crudeltà, e che da nessun'altra delle persone con cui convivevano era stimato tale. In verità, per tali creature la vita deve essere stata un lungo, immenso dolore in quella specie di inferno che è il nostro mondo. Che altro rimaneva alla mia povera madre se non inculcare nell'animo dei suoi figli i suoi medesimi sentimenti? Ma qualunque cosa si dica sull'efficacia dell'educazione, i fanciulli restano in sostanza e di mano in mano che si crescono, quali furono foggiati dalla natura. Alfredo era nato aristocratico. Divenuto adulto, tutte le sue inclinazioni, tutti i suoi ragionamenti erano aristocratici e tutte le esortazioni della nostra povera madre furono gettate al vento. Quanto a me, invece, esse mi si scolpirono nel profondo del cuore. Mia madre non contraddiceva mai formalmente alcuna delle idee di mio padre, mai in apparenza si trovava in opposizione con lui, ma seppe imprimere a caratteri di fuoco nell'anima mia un altissimo concetto della dignità e del valore che ha ogni creatura umana, quantunque infima nei gradi sociali. Io la contemplavo con solenne venerazione quando ella, mostrandomi il cielo stellato, mi diceva con voce commossa: "Guarda, Agostino, il più misero, il più ignorante dei nostri poveri neri sussisterà quando tutti quei mondi saranno polvere. La loro anima è immortale come Dio." Mia madre possedeva alcuni antichi quadri di pregio, uno dei quali rappresentava Gesù che guarisce un cieco. Questo quadro era assai bello e faceva sempre su me la più viva impressione. "Guarda, Agostino," mi diceva mia madre, "questo cieco era un mendicante tapino, però Gesù non lo volle risanare da lontano e glielo chiamò a sé e pose le sue mani sopra di lui. Ricordati di ciò, figliuolo mio." Se avessi potuto continuare a vivere sotto le cure di mia madre, ella mi avrebbe ispirato l'entusiasmo per le grandi cose, sarei divenuto forse un santo, un riformatore, un martire. Ma sventuratamente fui diviso da lei quando avevo appena 13 anni e non l'ho veduta mai più. St. Clair stette in silenzio per alcuni istanti, col capo appoggiato tra le mani, poi, sollevando gli occhi, riprese a dire: "Che è mai ciò che si chiama virtù umana? Essa non è il più delle volte che un caso, un affare di latitudine o di longitudine, di posizione geografica, combinata col temperamento dell'uomo, un accidente, nulla più. Vostro padre, per esempio, pone la sua dimora nel Vermont, in un paese dove tutti sono di fatto liberi e uguali. Egli diviene membro e diacono di una chiesa, si aggrega ad una società abolizionista e reputa noi altri altrettanti pagani. Tuttavia, sotto ogni rispetto, per il temperamento come per le abitudini, egli è precisamente una copia di mio padre. Ne ha lo stesso spirito fermo, imperioso, assoluto. Voi sapete bene, cugina, che gli abitanti del vostro villaggio sanno che St. Clair si reputa al di sopra di loro. Fatto è che, caduto, dirò così, in mezzo a una popolazione democratica, ha abbracciato teorie democratiche, ma nel suo cuore è un aristocratico, né più né meno di quello che lo fosse mio padre, il quale teneva sotto di sé 500 o 600 neri. Miss Ophelia avrebbe voluto ribattere acremente, ma St. Clair la prevenne. "So," disse egli, "ciò che volete dirmi. Io non pretendo che essi fossero del tutto uguali. Uno di essi si trovò in condizione dove ogni cosa contrariava fortemente le sue naturali inclinazioni, l'altro invece dove tutto le favoriva. Per conseguenza, il primo diventò un vecchio despota, altero e caparbio. Se ambedue avessero avuto piantagioni nella Louisiana, Sarebbero stati non meno uguali che due palle fuse nella stessa forma. Quanto poco rispetto avete per i vostri parenti, disse Miss Ofelia. Contro la mia intenzione, davvero, benché, come sapete, il rispetto non sia il mio forte. Ma riprendiamo il racconto. Quando mio padre morì, lasciò a mio fratello e a me quanto egli possedeva perché lo ripartissimo d'amore e d'accordo. Non c'è in tutta la terra un'anima più nobile, un cuore più generoso di Alfredo nelle sue relazioni coi suoi uguali, e noi procedemmo perfettamente unanimi nella divisione dei beni paterni. Ci accordammo di coltivare insieme la stessa piantagione e Alfredo, che aveva attitudine e energia il doppio di me, divenne un piantatore entusiasta e riuscì a maraviglia nella sua impresa. Ma 2 anni di prova mi convinsero che io non ero uomo da poterlo coadiuvare. Dovevo governare 700 schiavi che non conoscevo e verso i quali non sentivo alcun interesse personale. Farli dormire, mangiare, lavorare con precisione militare, guidarli come gregge, fissar loro l'orario del riposo e dello svago, dover ricorrere agli ispettori, agli aguzzini e adottare sempre, per ultimo argomento, la frusta. Tutto ciò mi era insopportabile e allorché riflettevo a quanto mi aveva insegnato mia madre sul pregio di un'anima umana, la nausea diveniva orrore e ribrezzo. Oh, nessuno venga a dirmi che gli schiavi amano la schiavitù, mai ho potuto tollerare le insulsaggini che nel loro zelo per scusare i nostri peccati spifferano a questo proposito alcuni dei vostri filosofanti del nord. Noi tutti conosciamo un po' meglio le cose. Nessuno venga a dirmi, ripeto, che un uomo è contento di lavorare tutti i giorni della sua vita, dallo spuntar dell'alba fino alle tenebre della sera, sotto la continua e severa vigilanza di un padrone, senza aver libero un solo atto di volontà, curvato sempre sulla stessa arida, monotona, invariabile fatica. E tutto questo perché? Per 2 paia di brache e un paio di scarpe all'anno, con tanto di cibo e di sonno quanto basti appunto a mantenergli le forze per lavorare. Io auguro a ogni uomo, il quale pensa che creature umane possano lodarsi di questo sistema, gli auguro di farne le esperienze egli stesso. Quanto a me, comprerei volentieri quel cane che sostenesse una simile tesi e lo farei lavorare senza ombra di scrupolo.